Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Francesco, uno dei componenti del gruppo Electric Circus, che tra poco ci parlerà del nuovo progetto che ha curato la band. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao e grazie dell'invito. Vorrei iniziare questa intervista parlando appunto di questo nuovo progetto che avete curato, perché è stata pubblicata recentemente su Rai News un ciclo di documentari, 4 documentari di cui voi avete curato la colonna sonora e il sound design. Di che cosa si tratta e nello specifico qual è stato il lavoro degli Electric Circus in questo progetto? Esatto, dici bene, si tratta appunto di una docuserie, ovvero sono 4 piccoli episodi da 10 minuti l'uno e raccontano la storia di 4 persone in 2 paesi dell'Africa occidentale, in Mali e in Senegal, che hanno scelto o comunque che hanno intrapreso un percorso di professionale di diverso tipo, ognuno dei 4 ha un ambito diverso, rimanendo nel loro paese terra d'origine. Quindi questo era, diciamo, il tema che legava tutti e 4 gli episodi, e ognuno dei 4 ha le sue caratteristiche e sono dei personaggi comunque molto diversi fra loro e molto interessanti, però l'idea era di raccontare questo percorso non migratorio. L'idea non è nostra, il regista si chiama Andrea De Giorgio, è un giornalista, molto scrittore, molto bravo, che lavora da tanti anni in Africa occidentale, e quindi appunto ci ha coinvolto lui in questo suo progetto. Insomma, è stato molto stimolante e interessante lavorare con lui su una colonna sonora originale. A proposito di questo, dicevi tu una colonna sonora originale, come si approccia un lavoro del genere, ovvero come si affronta la sonorizzazione poi di delle immagini che andranno in TV o comunque che andranno poi sul piccolo schermo? Questa è un'ottima domanda, ci sono diversi approcci possibili. Allora, noi abbiamo anche un po' forzatamente, causa la pandemia che c'è stata nel frattempo, dovuto lavorare in remoto, quindi a distanza, e cercando di appunto anticipare un po' i tempi rispetto a quelle che erano le riprese, per diciamo che il Covid ha fatto slittare di parecchio le sessioni di ripresa. Insomma, è stato tutto ovviamente reso un pochino più complesso, però l'approccio che abbiamo adottato è stato quello di comporre dei brani. Prima abbiamo fatto degli incontri, dei brief con Andrea, per cercare di capire da lui quale fosse, insomma, il mood, no, in generale, quindi se voleva insomma, proprio stiamo parlando di macro scelte, quindi le sonorità, se era una cosa, non so, di tensione oppure di soluzione, no? Cioè, quindi una cosa un pochino più generica. Poi noi abbiamo fatto in anticipo un po' di bozze che le abbiamo proposte, e lui da quelle bozze ha scelto dei sound che sembravano poter andare bene. E poi è stato un lavoro, diciamo, di approssimazioni successive. Noi appena avevamo il materiale girato, e noi abbiamo potuto, insomma, riprendere in mano le bozze e fare un lavoro un po' più cucito ad hoc sulla ripresa specifica, fino ad arrivare all'ultimo passaggio col montato finito, in cui ci siamo cimentati in parte nell'aggiunta di elementi di sound design un po' più specifici, quindi su ad esempio, non so, il cambio di una scena o il taglio o cambio di inquadratura. Insomma, no, proprio fare le cose un po' più precise, abbiamo fatto anche quel lavoro lì, perché venisse proprio, insomma, un vestito su misura, e è stato un lavoro interessante, molto interessante, soprattutto da fare in 6 persone e quasi tutto in remoto. È la prima volta che come gruppo, come Electric Circus, curate un lavoro del genere, oppure ci sono state già degli episodi precedenti a livello di questo tipo di lavoro? Quindi andare a costruire, come dicevi tu, un vestito su misura per poi altri prodotti, oppure è la prima volta? Allora, non è la prima volta, non è proprio la primissima volta, diciamo che è la prima volta come band completa, quindi di 6 elementi, affrontiamo proprio la scrittura, cioè a partire dalla composizione, dopo l'arrangiamento e le fasi successive di produzione, tutto insieme. Alcuni di noi come singoli l'avevamo già fatto in passato su altri progetti, ma come band non l'avevamo mai fatto. Non siamo però nuovi a, diciamo, al mondo delle colonne sonore, avevamo già prestato dei nostri brani, però erano brani di un disco che era già uscito, sempre da Andrea, che è stato poi il progetto su cui l'abbiamo conosciuto circa 3 anni fa, per un'altra miniserie di documentari in cui appunto abbiamo prestato 4 brani del nostro disco alla produzione, e in uno degli episodi, invece, un quinto episodio, abbiamo composto un nuovo brano che non era nel disco e l'abbiamo poi concesso a lui stesso. E non è stato un lavoro così, come dire, preciso di composizione originale, quindi non è comparabile, però avevamo già avuto anche in quell'occasione lì un po' il modo di confrontarci con la musica per le immagini, no? Quindi quando vai a mettere sotto visivamente qualcosa rispetto a quello che di solito, insomma, noi siamo abituati semplicemente a sentire, che è comunque un approccio diverso. Ecco. Forse non l'abbiamo ancora citato, ricordo che comunque questi 4 documentari si chiamano Contre-Courant e sono fruibili appunto sulla piattaforma di Rai News. Ti chiedo se alla fine di queste pubblicazioni verrà poi fatto un album apposito per le vostre musiche. Sì, dici benissimo, il titolo appunto è Contre-Courant, mi perdonino i francofoni. Sì, anch'io sono un po' terribile. Siamo in 2. Col francese, esatto, il francese purtroppo non lo mastico, però significa controcorrente, giusto così anche per riprenderci, no? Che era il riferimento a queste persone che non hanno, diciamo, intrapreso un'azione migratoria, quindi sono andati controcorrente sia in senso letterale, che c'è di mezzo il mare fra l'Africa e l'Europa, ma anche in senso figurato, che hanno cercato di invertire la tendenza rispetto ai flussi di migrazione. Quindi e questo è l'aggancio con il titolo. E sono disponibili appunto gli episodi sul sito di rainews.it, è sufficiente cercare Contre-Courant sul loro portale, e si trovano tutti e 4. E poi noi, come hai anticipato tu, abbiamo deciso di estrarre le parti musicali che ci piacevano, insomma, e che più ritenevamo significative dalle colonne sonore, fare un EP. Vengono una decina di pezzi, sono delle pillole, alcuni sono anche molto brevi, 1 minuto, 1 minuto e 10, una cosa del genere, perché sono proprio dei momenti, no, musicali che sono appunto stati composti e piazzati su alcune scene, in particolare del documentario, che però a noi piaceva anche, come dire, estrarre, e quindi sarà pubblico a partire dalla fine di ottobre sul nostro Bandcamp il 31 ottobre e subito dopo su tutti gli store digitali, Spotify, Amazon Music, iTunes Music, eccetera, sotto il titolo di appunto Contre-Courant Original Soundtrack. Francesco, io ti ringrazio e ringrazio tutti gli Electric Circus, e chiaramente invito tutte e tutti ad andare a sentire le vostre musiche, le vostre colonne sonore costruite, ideate per questi documentari Contre-Courant. Lo ripetiamo, sono fruibili su Rai News e speriamo a presto. Grazie. Grazie mille a te, è stato un piacere e buon proseguimento, e saluto a tutti quelli che sono in ascolto.